La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio NetWeb, il primo network di musica copyleft. Signore e signori, benvenuti al Mangia Show. Presenta il Mangia. Buon divertimento. Ladies and gentlemen, welcome to the Mangia Show. Presents the Mangia. Enjoy. Insomma, eccoci qua dopo una breve pausa, insomma breve mica tanto, durata un po' di mesi per via del, insomma, del sottoscritto che si è preso una pausa di riflessione. Ho dovuto fare un po' di esami, ma ora sono tornato alla grande con voi sulle onde di questa stupenda radio, la conduzione della trasmissione Mangia Show, in onda nell'arco della settimana, in svariate ore, sia in diretta ma anche in differita. Spieghiamo ancora una volta ai nuovi amici cos'è il Mangia Show. Il Mangia Show è una trasmissione di intrattenimento musicale radiofonico condotta in studio al microfono da Andrea, o se preferite chiamarmi Mangia, è il diminutivo del mio cognome, Mangiarotti, Mangia, del vostro caro DJ Mangia. Abbiamo una serie di contatti, se volete intervenire direttamente con noi potete farlo visitando il mio sito, il mio blog, all'indirizzo www.andreamangiarotti.com. Li trovate anche i vari link che vi portano per mano, passatemi il termine, su Twitter e anche su Facebook. La musica trasmessa all'interno di questa trasmissione, lo ribadisco, sono dei brani di musica Creative Commons oppure musica di pubblico dominio. La nostra radio, come anche la nostra trasmissione, non trasmette assolutamente opere coperte dai diritti d'autore della SIAE. Quindi, come si suol dire, viva la musica libera, viva la radio fatta come si faceva un tempo, e ora da internet, in particolare da Google News, ho trovato alcune notizie che riguardano proprio l'Europa. Come ben sapete, questo periodo, insomma, è un periodo caldo, diciamo così. Sarkozy con la Germania per un nuovo trattato o l'Unione Europea rischia il tracollo. È una notizia della ADN Kronos che per l'appunto dice che il presidente francese annuncia un incontro con la Merkel. L'unione fra Germania e Francia fa sì che tutta l'Europa sia unita e forte, quindi avverte, i trattati di Schengen devono essere ripensati e rifondati. Questo è quello che accade a Parigi, come ben sapete. Insomma, il governo italiano, dopo le dimissioni del premier Berlusconi, pare sia tornato ad essere accettato da questi due leader di Stato, Sarkozy e Merkel. Staremo a vedere, insomma, che cosa accadrà, anche se la situazione, come spesso vi dicono tutti, vi dicono i telegiornali, eccetera, eccetera, è critica, ma non impossibile. Insomma, l'Italia ha un grande cuore e, come si suol dire in questi casi, a mio avviso ce la potrà fare egregiamente ad uscire da questa crisi che coinvolge non solo l'Europa, ma è una vera e propria crisi mondiale, forse anche del sistema capitalistico. Bisognerà, diciamo così, pensare forse a un mondo un po' più rivolto all'umanesimo e meno a un mondo rivolto al primeggiare, ad essere leader, e a chi è che non riesce a essere, insomma così, a chi è che viene emarginato perché magari non ha, diciamo così, determinate doti, oppure semplicemente, come accade in Italia, determinate raccomandazioni, diciamolo a bassa voce. Benvenuti a tutti all'interno del Mangia Show. C'est un petit guignol dans son palace cosy qui m'a dit très gentiment: travaille plus pour gagner plus. Alors j'ai voté pour lui, j'ai fermé ma bouche aussi, et j'ai gaspillé mon temps pour en gagner toujours plus.

vanno in sincro per la nostra nazione, quantomeno il Parlamento non è più in scacco, insomma, come qualche mese fa, quando insomma si votava un pochino spesso le leggi di fiducia e si poteva poco discutere di temi magari importanti. Giuro, prometto che non parlo più di politica, era l'ultima notizia che riguarda questo settore politico, poi parleremo di tutt'altro. Ora ospitiamo una grande band che, devo essere sincero, mi piace molto. In precedenza abbiamo fatto insomma un piccolo accenno sulla situazione economica e loro sono i REM e si battono proprio per un mondo nuovo, un mondo diverso, che non sia il solito mondo capitalistico dove primeggia chi è che è più bravo, chi è che ha, diciamo così, anche conoscenze alle spalle, ma si battono forse per un mondo un po' più equo, solidale, che dà spazio a tutti e si valuta le persone sotto altri aspetti, che non sia solo l'aspetto del vile denaro. Infatti i Rain, il prossimo gruppo che ospitiamo al Mangia Show, hanno deciso di togliersi dal SIAE e di pubblicare le loro opere sotto licenza Creative Commons, così, no, perché condividono come noi la libera circolazione della musica. La musica deve essere appannaggio di tutti, e non dico che deve essere gratuita, però tutti devono avere, a mio modo, il diritto di poter ascoltare delle canzoni. C'è chi è che magari non ha la possibilità di acquistarsi i CD a 22€, 23€, e allora tramite internet, diciamo così, tramite il web, riesce ad ascoltare e anche a scaricare musica. Molti non la pensano come sottoscritto e come anche i Rain, però ognuno ha i propri punti di vista. Anzi, se avete magari dei punti di vista differenti del mio, potete anche scrivermi una mail all'indirizzo che trovate nel sito www.andreamangiarotti.com. Non lo dico in onda perché chissà mai che anche i mitici spammer eccetera eccetera, oltre che copiare magari dei siti gli indirizzi email, li copiano anche in maniera vocale. Al giorno d'oggi chi può dirlo? Mai dire mai, perché il web insomma è una fonte inestimabile di cultura, di musica e di creatività, ma purtroppo è anche un luogo non proprio sicuro al 100%. La prossima canzone in scaletta è stupenda ed è proprio dei Rain, che ci parlano al loro modo, dal loro punto di vista, insomma, di questa bella società attuale in cui viviamo, bella o brutta, dipende insomma come la pensate. Prossima canzone è Hiroshima Takeaway, loro sono i mitici Rain. Il ragazzo morto stamattina era presso a poco innocente, è stato ucciso dai cinici peggiori venditori di niente. Il corpo per terra non avrà avuto neanche 20 anni, disciolto, inghiottito, ammazzato prima di fare altri danni. Benvenuti nell'era globale della normalizzazione, qua c'è il futuro, te lo vendono a rate la televisione. Negli scaffali di autogrill sospesi nel nulla, su scontrini che scoloriscono col passare dei minuti. E in città ti ricordo il traffico coi mitragliatori, le loro facce sono fatte di gomma, amianto e cemento. Si muovono in branco alla ricerca della diversità, poi la caricano su camion neri e la portano via. Le mie notti sono bianche di luce, non c'è altro da fare. Mi giro e mi rigiro nel letto senza vederne la fine. facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. E un satellite per migliore amico non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo. I cingoli dei mensi pubblici del nuovo millennio si fanno strada nelle vie del centro senza memoria. E sabato faremo acquisti col passo dell'oca. Un prestito e avremo anche noi la nostra croce uncinata. E niente e nessuno mai più ci potrà giudicare, perché bruciare la gente è diventata una cosa normale. Il cuore, le stanze segrete scavate nel petto. Dall'ultimo album bellissimo dei REM, Hiroshima Take Away, la traccia che abbiamo poc'anzi ascoltato, che abbiamo ancora in sottofondo, estratta dall'album È Finita, un album stupendo che trovate in free download su www.yamendo.com, ma anche sulle principali reti P2P tipo Emule, Torrent, eccetera eccetera. I REM, come vi dicevo, hanno proprio sposato questa filosofia della libera circolazione della musica per tutti, sempre ovviamente avendo una tutela per loro. Si sono cancellati dalla CIA per regalarci, grazie al cielo direi, grazie a Dio, queste sonorità che spesso ascoltate all'interno del Mangia Show. Un'altra notizia che ci giunge questa volta dal web: come ben sapete, dopo circa 10 anni MySpace, si può dire, purtroppo è in calata vertiginosa, sta attraversando un brutto periodo di crisi, questo dovuto anche all'espandersi del social network Facebook. Però pensate, circa 6 o 7 anni fa, mi ricordo, MySpace primeggiava tra i social network, tutti ne parlavano bene, un'idea innovativa, il futuro eccetera eccetera, e ora è stato soppiantato dal social network di Zuckerberg, Facebook, e purtroppo un'altra società che è in fallimento, direi società storica, perché che bazzica del web da circa 10, 11, 12, 13 anni, purtroppo anche Yahoo naviga in brutte acque. Si può dire insomma che Yahoo insieme a Google hanno dato il là a internet, al mondo dei motori di ricerca, e di seguito ai vari provider eccetera eccetera. Ora Yahoo sembra che voglia essere venduto per i gravi problemi finanziari che sta attraversando questa società. Peccato, peccato, peccato. Addirittura vi do una dritta, poi ascolteremo un'altra bella canzone. Se andate su www.archive.org, scritto archive.org, è un sito americano molto interessante che raccoglie vecchie testimonianze del web, non solo su supporto, diciamo così, audiovisivo, ma anche proprio su supporto, diciamo così, HTML. Trovate le prime pagine proprio di Yahoo del 1997-98. Una vera e propria chicca. Andate su questo sito archive.org, dove è che attingo per proporre della musica sempre in scaletta anche da questo sito, oltre che gli Amendo, e trovate proprio la mitica home page di Yahoo nel 1996, se non erro 97-98, qualcosa di magico, di spettacolare, che ci faceva, diciamo così, impazzire ai tempi del vecchio modem analogico, quando ci collegavamo col modem 56k, insomma, e si sentiva questo rumorino particolare, tutti lì ad ascoltare se partiva o no la connessione. Vabbè, dai, divagazione del sottoscritto. Comunque vi ricordo che siete sempre all'ascolto del Mangia Show, in vostra compagnia di Mangia. Ora diamo spazio a un grande artista pavese, lui è Roberto Daglio, che trovate anch'esso su www.yamendo.com. Quest'oggi di Roberto ci ascoltiamo una sua traccia stupenda, Promenade in Los Angeles. Ascoltate qua che belle sonorità. Signore e signori, per voi Roberto Daglio, Promenade in Los Angeles. Daglio con Promenade in Los Angeles, questa bella canzone che trovate dal suo ultimo album, uno dei suoi ultimi album, ovviamente su www.yamendo.com. siete all'ascolto del The Mangia Show in compagnia del Mangia. Vi ricordo i nostri contatti se volete interagire con me: www.andreamangiarotti.com. Li trovate i vari link per accedere a Twitter e a Facebook se avete voglia di aggiungermi nei vostri, diciamo così, amici di Facebook, oppure se avete voglia di leggere le notizie concernenti il sottoscritto. Notizie molto frivole, molto direi a portata di tutti, non si parla di cose, diciamo così, importantissime. Poi là ci divertiamo a scrivere dei bei messaggini su Twitter, tanto per stare insieme, per fare, diciamo così, una dialogata via messaggio. Ora vi ricordo che insomma ascolteremo un altro brano, e poi vi ricordo un'altra cosa molto importante: terminato il The Mangia Show, tra un pochino le stesse canzoni che state ascoltando ora in playlist con la mia voce che ci parla sopra, le ascolterete in heavy rotation senza diciamo così la conduzione del sottoscritto. Quindi partiranno le canzoni e ve le potrete gustare all'interno di The Mangia Show Deluxe, che prenderà vita al termine del Mangia Show consono in diretta con il sottoscritto. Lo ascolterete, diciamo così, varie volte nell'arco della giornata, della settimana, in versione live oppure anche in versione replicato. Mandiamo un saluto a chi è che magari decide questa sera di andare a ballare e che ci ascolterà in replica, invece un salutone a voi, un buon pomeriggio, buona mattinata a seconda di quando verrà trasmessa. Altra cosa molto importante, questa trasmissione la potrete ascoltare in versione podcast sul sito archive.org, basta cercare The Mangia Show, The Very Best of Mangia Show mi sembra, nel motore di ricerca del sito trovate tutte le nostre puntate, le potete anche, diciamo così, ascoltare nel vostro cellulare, nel vostro iPod. Invece se siete editori di radio italiane o internazionali, autorizzo tranquillamente la messa in onda nella vostra radio, sia non vi preoccupate, se volete magari riempire il palinsesto della vostra stazione radio, via, potete utilizzare il mio programma tutte le volte che volete, così, no, per diffondere la musica libera sul web in molte radio. Quindi un ringraziamento e un saluto a tutti gli amici che mandano in onda il Mangia Show. Prima di tutti un salutone al circuito Net Web Radio Stella di Ruggero, grazie ancora una volta a Ruggero che manda in onda la nostra bella trasmissione. Un salutone anche a lui e a tutti gli amici di circuito Net Web, dove la nostra radio, diciamo così, fa parte e vi permette, insomma, di ascoltarci non solo su una radio ma in molte radio. Quindi non vi preoccupate, se volete duplicare la trasmissione, volete trasmetterla, fate pure, autorizzo tranquillamente la messa in onda del Mangia Show. Proseguiamo con la musica, un artista che a me piace molto, spesso lo programmo perché adoro le sue sonorità, non vi nascondo che mi sono masterizzato alcuni dei suoi CD e poi me li sono ascoltati in macchina. Sto parlando di Kammerer, un bravo artista scandinavo che quest'oggi ci propone una traccia dal titolo Devil's Deep Inside. Stupenda, lui è Kammerer. Thank you. Stupenda musica dell'artista scandinavo, scusate, Kammerer con Devil Deep Inside. Apriamo ufficialmente lo spazio I Love Cinecittà. In questo spazio noi ricordiamo una vecchia pellicola italiana che in passato, oltre ad essere molto vista al cinema, ha fatto ottimo successo e ovviamente in questi anni viene riproposta con entusiasmo dalle televisioni. Non tanto Mediaset, che perde tempo per i reality, ma forse magari viene riproposta principalmente su Sky o su Rai Movie. Quest'oggi parliamo di un DVD storico, Cattivi Pensieri. Sicuramente i fans di Ugo Tognazzi già drizzeranno le orecchie come sottoscritto. Cattivi Pensieri infatti è un film che vede come interprete e allo stesso tempo regista Ugo Tognazzi. Tra gli attori protagonisti Edwige Fennec e Veruska, che era una fotomodella che negli anni, fine anni 70, era molto molto in voga. Vediamo un pochino la trama di questo film, che vi ricordo vede Ugo Tognazzi alla regia. Ha diretto altri film Tognazzi, oltre che anche interpretarli, e Cattivi Pensieri mi pare sia l'ultimo film diretto da lui. Scusate, non ho qua davanti Wikipedia, mi sembra fosse il quarto film diretto da Ugo Tognazzi. Comunque, vediamo un pochino la trama e quello che accade in questo DVD, che tra le altre cose vi consiglio. Mario Marani è un avvocato alle dipendenze di un importante personaggio dell'alta finanza, che per colpa di due lunghi piedi maschili intravisti nel ripostiglio di casa, vive con la paura di essere tradito dalla moglie Francesca, splendida donna invidiata da tutti. Mario Marani è per l'appunto Ugo Tognazzi, che immagina di aver visto dei piedi nascosti nel ripostiglio. Insomma, quindi immaginate come Tognazzi tocca questo tema della gelosia maschile. Così, quando se ne va in giro con lei, pensa soprattutto chi potrebbe essere il presunto amante ai suoi cattivi pensieri. Sono sogni ad occhi aperti in cui la moglie lo tradisce. Lui infatti immagina che la moglie lo tradisca con amici, contro amici, sconosciuti. Questo film è una versione aggiornata di Il Magnifico Cornuto. Il film è una divertente commedia degli equivoci, diretta in modo coinvolgente e sublime da Ugo Tognazzi, che vede protagonista, come detto in precedenza, la splendida Edwige Fennec, fotomodella più famosa dell'epoca, e la fotomodella per l'appunto più famosa dell'epoca, Veruska, ed un divertentissimo Orazio Orlando. Fra gli sceneggiatori ricordiamo Enzo Iannacci e Giuseppe Viola, che molti di voi lo ricorderanno alla Domenica Sportiva, era un giornalista sportivo Rai. Quindi per I Love Cinecittà quest'oggi ricordiamo Cattivi Pensieri, un bel DVD che trovate tranquillamente nei principali supermarket. La musica, può dirlo, con un grande disco di Felix JD, tra le altre cose uno dei miei artisti preferiti di Gliamendo.com. Questa canzone è intitolata Ash in the Heart, Felix JD. Oh, l'amico Graziano Manca, il secolo Dark Knight con Skylanding, questo bel disco che trovate in free download su www.yamendo.com. cercate Graziano Manca, aggiungete anche Dark Knight e trovate le sue opere pubblicate sotto licenza Creative Commons, quindi ve le potete scaricare, ve le potete ascoltare e perché no anche diffondere in giro per il web, ovviamente secondo la licenza che l'artista ha scelto. Graziano Manca è un produttore indipendente di musica elettronica, un amico principalmente piacentino, gli mandiamo un saluto in caso fosse all'ascolto. E ora una notizia che ci giunge da WikiLeaks: siamo tutti spiati tra chat, sms, Grande Fratello, c'è da fare degli affari con i regimi. Questo è un articolo che prendiamo dal Messaggero: siamo tutti facilmente spiati, tanto che forse sta già accadendo. È l'ultimo inquietante scoop messo a segno da WikiLeaks in partnership con il Bureau of Investigation Journalism e Privacy International, organizzazioni britanniche che si battono per il rispetto della privacy. Una platea di società, pensate un po', private, sparse per il mondo, Italia compresa, è infatti in grado di offrire spesso ai migliori offerenti tecnologie capaci di monitorare email, sms, telefonate di un'intera popolazione. Sistemi che, se consegnati agli aguzzini di spietati regimi, possono essere letali quanto un proiettile. Nel corso degli ultimi 10 anni, ha detto Julian Assange durante la presentazione dell'inchiesta soprannominata Spy Files, è fiorito nell'industria internazionale che fornisce ai servizi segreti degli stati equipaggiamenti capaci di sorvegliare masse di persone. Pensate un po', quelle aziende ora stanno espandendo i loro prodotti in giro per il mondo in modo incontrollato. Assange e gli altri hanno rintracciato quanto più materiale possibile per identificare i nomi di quelle società e descrivere in dettaglio i servizi che sono in grado di offrire. Una cosa veramente incredibile, sembra fantascienza ma è realtà. Poi l'articolo continua dicendo che proprio ci sono delle vere e proprie società, eccole qua, che producono virus Trojan in grado di assumere il controllo di computer e cellulari, incluso iPhone, BlackBerry e Android. Tutto questo nel reportage che Julian Assange ha pubblicato su WikiLeaks, probabilmente in lingua inglese. Comunque andiamoci a fare un giro: cose assurde che poco tempo fa sembravano fantascienza, ora purtroppo, ahimè, sono la cruda e vera realtà. Questo articolo dice che Google però sta correndo ai ripari: sono strumenti che permettono ai governi di registrare e analizzare email, chat, in cui Google permette di scandagliare il web, però promette Google di fornire dei controlli per difendere la privacy dei suoi utenti. Vabbè, staremo a vedere, ne dubito. Comunque sappiate che Google offre un sacco di ottimi servizi, che possono essere le mail, eccetera eccetera, anti-spam e così, però attenzione, perché la vostra identità è messa veramente in piazza, come si suol dire, tra virgolette, è messa in piazza. Salutiamo gli amici che vanno a ballare in questa bella serata, se ci ascoltate di sera, oppure se ci ascoltate di mattina o pomeriggio, sarà insomma una buona giornata, una buona mattinata. Però per gli amici che vanno a ballare ho pensato a questo disco, penso li farà sicuramente felici. We'll be right back. buon ballo a tutti. Siamo entrati in discoteca con questo bel brano di Soundwall DJ Team. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto del Mangia Show, ancora per poche battute. Leggiamo un'altra notizia sempre molto interessante nel mondo dei social network, estrapolata da Sole 24 Ore Online. Twitter, il social network che non ti aspetti. Quando nel 2006 Jack Dorsey e soci implementarono Twitter, avevano in mente qualcosa di diverso. E anche questo è uno degli aspetti interessanti della piattaforma di microblogging, la capacità degli utenti di trasfigurare la genesi di un mezzo e farlo diventare un'evoluzione di sé lontana da quella che era nella mente degli ideatori. Pensate un po', sono gli internauti che fanno la rete, e in virtù di ciò questo assume lo spessore che gli utenti danno tramite l'uso che fanno e i temi che trattano. La tagline scelta dagli ideatori di Twitter fu What's Happening, slogan che si poteva parafrasare con cosa succede nel tuo mondo, invece oggi è diventato piuttosto una cosa diversa, cioè cosa succede nel mondo, meno conversazione diretta, scopo meglio servito di altre piattaforme e più tantum virtuale, maggior spirito di condivisione in uno specchio limitato, quello dei 140 caratteri, che non lascia spazio ai fronzoli e alle stupidate, diciamo così. La crescita del numero dei tweet è quotidiana, in costante ascesa e mostra cifre notevoli, ma non devono destare stuporre. È il fardello che devono sopportare i 2 milioni di 5T giornalieri registrati fino a giugno scorso. Oggi sono diventati circa 250 milioni a metà ottobre. È decisamente il canale principale per raggiungere di profilo in profilo una quantità di occhi e bocche pronte a spargere a macchia d'olio quei pochi caratteri che fanno il giro del globo nell'arco di poche ore. Così Twitter, nato per offrire una forma di social network, è diventato tutt'altro, andando però a sbaragliare la concorrenza. Non è un social network, sta diventando un information network, oppure guardando sotto l'ottica sociale tiene il passo con i suoi 160 milioni di utenti, dei quali 100 dei quali è attivi, di giganti che possono contare su un numero utenti ben maggiore. Ecco, quindi effettivamente Twitter è diventato questo, perché doveva sembrare il classico social network, invece poi è diventato proprio un network information, perché ricorderete la Libia e non solo, i paesi arabi dove sono scoppiate le rivolte, e tramite Twitter è stato informato il mondo intero. Vi ricordo, mi sembra superfluo farlo, però magari c'è qualcuno che non è ancora iscritto, basta andare su www.twitter.com, iscrivervi gratuitamente e potete iniziare anche voi a postare, insomma, quello che volete. Vi ricordo che a differenza di Facebook avete un limite di caratteri da postare, abbiamo detto 130, mi pare 130 caratteri, non di più, perché se scrivete di più vengono cancellati. Quindi ricordate anche Twitter. E con questa canzone purtroppo siamo giunti al termine. Vi ricordo che le canzoni che avete ascoltato in playlist le riascolterete tra pochi istanti senza nessuna interruzione all'interno del The Mangia Show Deluxe. Noi ci sentiamo prossimamente sempre qua, stessa radio, stessa magica frequenza, si diceva un tempo. Un abbraccio del vostro Mangione. Sigla e poi Steve Dukeson con Moving a Little Closer, canzone stupenda. No, è sbagliato scrivere closer, mi sembra move a little closer, scusate. Steve Dukeson, tra poco, ora sigla. Avete ascoltato il Mangia Show. Tutte le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Scusate, è la vecchiaia che avanza. L'ultima canzone è di Steve Dukeson con Move a Little Closer. Qua è scritto sbagliato, è scritto Clore, non so come mai. Probabilmente è un errore del mio computer. Move a Little Closer, bellissima. Dopo di noi vi ricordo The Mangia Show Deluxe, Only Music for You. Ciao ciao. Skip. skin on skin, come on in, my arms are open. Move a little closer. To me. Move a little closer. Skin on skin, come on in, my arms are open. I know what you're thinking, can I trust him? I don't know him, but you know me better than time would suggest. My darling, you knew me from the moment. Rested on my chest. Move a little closer. Skin on skin.